Ecco, c'è un detto in piemontese che dice: "Quanca l'om sfatera, la donna la vembela". Non ce ne ho uno Ecco. marchigiano, mannaggia. Traduzione. Claudio, vada veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma Nicoletta, pensavo di vederti qui in studio stamattina. Ti sei presa un altro giorno di libertà da me? Ma Deborina, sono a Roma anche oggi. Ieri te l'ho detto, non te lo ricordavi più. Oh, santo cielo, è vero, no, non me lo ricordavo più. Che figura! Sto perdendo i colpi. Mi sa che il mio cervello vuole andare un po' in vacanza. Forse in pensione anticipata è meglio. Non ti preoccupare, Deborina, per non far andare il cervello in pensione ti do una mano io, anzi tante mani, quattro mani, non perché capisco c'è la tanto. Battuta. No, perché mi faccio aiutare anch'io dal nostro esperto che è qua in studio con me a Roma. Deborah, torno oggi pomeriggio. Bene, bene. È il professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno professore. Io oggi proverò a fare quello per cui forse non sono nato, cioè l'economista del cervello. E fare l'economista di un organo che spreca a dismisura come il cervello è veramente difficile. Direi che cercheremo di delineare se si possa vivere di rendita senza intaccare il capitale, in questo caso neurologico, quando la persona va in pensione, e poi cercare di insegnare come cogliere i primi scricchiolii dei mercati nervosi, e l'altro aspetto, per chi gli scricchiolii già ce l'abbia, come sopravvivere in tempi di crisi, cosa che gli economisti dovrebbero dirci. Ma cercare di fare questo viaggio attraverso il cervello inteso in tre fasce: la capacità di sentire emozioni, la capacità di ricordare, e quindi cognitività, ma anche la capacità di autonomia, la capacità di muoverci, che pur dal sistema nervoso dipende. Ci piace molto questo economista del cervello, professor Barbanti, grazie. Allora io invito i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24 se avete paura che il vostro cervello perda colpi, abbia vuoti di memoria, la classica parola sulla punta della lingua che però non ci viene. Insomma, se avete paura che il vostro cervello stia andando in pensione, raccontatecelo e condividete con noi le vostre esperienze. La pensione, momento dal quale noi invece, Nicoletta, siamo molto lontane, vero? Vabbè, però prima o poi ci riguarderà, anche se siamo, diciamocelo tra me e te, giovani e belle, no? Sì, bellissime. Ma, e molto, ecco, simpatiche. Quando ci andremo, tu mi aiuterai a calcolare quanto prenderò. Sono qui per questo, ma soprattutto sono piena di esperti che aiuteranno te a farlo e anche me, speriamo. Fai attenzione, per esempio, che se la tua pensione corrisponderà ad un assegno molto alto, come peraltro ti auguro, lo Stato richiederà un contributo di solidarietà se in quel momento sarà in difficoltà lo Stato, chiaramente. Questo è stato previsto dall'ultima legge di stabilità, è vero Fabio Venanzi, esperto di temi previdenziali per il Sole 24 Ore? Sì, buongiorno a tutti, è vero, il disegno di legge di stabilità del 2014 prevede un contributo di solidarietà per quelle pensioni di importo superiore a 150 mila euro e gradualmente per importi superiori a 200 mila euro. Non ci dobbiamo dimenticare che però a fronte di questa tassa, tra virgolette, che viene richiesta ai pensionati, riparte la perequazione anche per quelle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a 1486 euro, e poi c'è un'ulteriore apertura per quanto riguarda il problema dei salvaguardati, degli esodati. In quanto negli ultimi due mesi sia il decreto IMU sia questo disegno di legge comunque amplia ulteriormente la platea di oltre 12.000 beneficiari. Benissimo, e allora io invito i nostri ascoltatori, qualora non vi fossero chiare queste novità, se siete tra gli esodati di cui tanto si parla, una ferita ancora aperta tra molti ex lavoratori, se avete sentito parlare del blocco dell'adeguamento all'inflazione, allora chiamateci oppure scriveteci anche su Facebook o su Twitter con il nostro esperto, cercheremo di chiarire tutti i vostri dubbi. E poi SMS al 349 238 6666. dubbi, domande e soprattutto richiesta di consigli per non mandare il nostro cervello in pensione anticipata e noi vi aspettiamo. Ma Deborah, con tutti questi nomi, numeri, insomma, il cervello mi sta andando in fumo, ma intanto io qua ho il professor Barbani. Allora guarda, serena. Facciamo una cosa, cominciamo prima che sia troppo tardi per tutti. Essere e benessere. Grazie a Dio non mi ha riconosciuto. Ci ho fatto Chicago e New York insieme 5 anni fa ed è stata la notte più lunga della mia vita. Perché mai? Ci ha provato con me e quando gli ho detto di no, dato che stava con una mia amica, oddio, non mi ricordo il suo nome. Non ti mettere con me, Joe, ho 26 anni e non mi ricordo nemmeno il nome di una ragazza di cui ero tanto amica da non voler andare col suo fidanzato. Professor Barbanti, ci sono dei momenti in cui ricordiamo un film ma non il titolo, la faccia di un attore famoso ma non il nome, andiamo in una stanza a fare una cosa ma non ci ricordiamo cosa. Sono tutti segnali che possiamo interpretare come scricchiolii del mercati del cervello? Ma prima dello scricchiolio pensiamo se il nostro disco rigido, anziché essere rotto, sia per caso pieno. Questo perché quello che noi chiamiamo genericamente memoria è una congiunzione astrale favorevole fatta di interesse, attenzione, concentrazione, assenza di disturbi. Siamo sicuri che nella vita quotidiana di chi ci ascolta e di chi stia per pensionarsi tutti questi items siano rispettati, ma è un po' difficile. E poi un'altra cosa, ci sono varie fasi della memoria. C'è la fase in cui tu devi zippare l'informazione che hai, cioè la vista, l'udito, quello che ti stanno raccontando, quello che stai leggendo. Una fase in cui la devi stoccare, cioè scrivere, per questo servono tante proteine, tante belle cose, e poi la cosa su cui tutti ci preoccupiamo tanto, andarla a ripescare, riprendere questo file. Poi ci sono tante circostanze attenuanti, io sono un po' contro il neuroterrorismo, tutti lo noi. Lo so, ecco. Vi piace per questo. Questa visione cimiteriale della medicina è un po' drammatica, in una popolazione che invecchia in realtà sempre meglio. E allora direi agli ascoltatori di pensare se il disturbo della memoria lo sentono loro o glielo dicono gli altri. Beh, se lo dicono gli altri lo scricchiolio incomincia ad essere un pochino più che un'indiscrezione. E poi ci sono medicine che possono compromettere un po' la memoria, gli uomini. Uomini che si alzano di notte varie volte a fare la pipì utilizzano farmaci che sulla memoria lì per lì possono non essere prodigiosi, quindi direi tante circostanze attenuanti per un fenomeno che va però sorvegliato. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre telefonate, ma intanto Deborina, tu ti ricordi che cosa hai mangiato ieri sera? Interrogazione a bruciapelo. Allora, casualmente me lo ricordo perché ieri ero in compagnia, per cui mi ricordo quello che ho fatto, ma mediamente una domanda a bruciapelo così mi mette in difficoltà qualche volta, non me lo ricordo spessissimo. Non ti preoccupare perché l'avevo già pensato. E oggi chiederemo anche al professor Barbanti proprio delle ricette e degli esercizi per allenarci e per mantenere il nostro cervello attivo, soprattutto quando andiamo in pensione, perché sennò che ci andiamo a fare, professor Barbanti? E se dovremmo andare a raccogliere il frutto di una vita di impegni. Con assegni dignitosi magari sarebbe anche meglio, professore, che ne pensa? Sì, purché appunto il pensionamento sia graduale e sia un pensionamento evidentemente solo dall'attività lavorativa, ma sviluppando parallelamente situazioni che coinvolgano le emozioni, perché insomma noi trascorriamo una vita di lavoro in cui tutta la nostra parte cognitiva, la memoria, la concentrazione è vistosamente attivata, ma l'altra parte fondamentale del nostro cervello, istintiva, quella che abbiamo da bambini, l'emozionalità, viene compressa, ma noi abbiamo tutta una pensione per svilupparla, con l'aiuto di qualcuno magari. Insomma, cambia la persona, cambiano le opportunità, cambia il lavoro, cambia naturalmente anche il nostro cervello, e tutto un percorso da quando siamo piccoli a quando siamo poi adolescenti, maturi, fino a quando andiamo finalmente in pensione. Quindi 800 24 00 24, che età dareste al vostro cervello? È prossimo alla pensione? Deborah? Ah, io ho 30 anni, direi che mi sono fermata lì mentalmente e speriamo anche un po' fisicamente, ma non credo. Ma a parte l'età, abbiamo sentito che cambiano i periodi e anche i denari ne risentono. Quando eravamo piccoli tutti ce lo ricordavamo, ricordiamo, perché tutti quelli che stanno conversando questa mattina hanno vissuto anche il loro periodo con le lire. Vi ricordate che pagavamo un gelato 500 lire, oggi un gelato lo prendiamo a non meno di 2 euro, 2 euro e mezzo. Siamo cresciuti appunto con l'arrivo dell'euro, ora ci rendiamo conto che i prezzi aumentano e quindi anche la nostra pensione non può essere uguale a quella dei nostri genitori, deve adeguarsi al costo della vita. Con le ultime misure, quando il nostro paese è stato in un momento di particolare difficoltà, questo adeguamento è stato bloccato. Fabio Venanzi, nostro esperto di temi previdenziali per il Sole 24 Ore, ci fa alcuni esempi pratici ed è vero che adesso questo adeguamento è stato di nuovo sbloccato, quindi le pensioni sono ritornate ad adeguarsi all'inflazione? Sì, è vero, riguarda naturalmente solo quegli importi superiori a 3 volte il trattamento minimo, quindi parliamo 1.443 euro lorde al mese, perché fino allo scorso anno e a quest'anno le pensioni sono state rivalutate sulla base dell'inflazione se risultavano inferiori a un determinato importo. Tutte quelle che risultavano di importo superiore invece non hanno subito alcuna rivalutazione, motivo per cui hanno avuto una perdita del potere di acquisto. Con il disegno di legge al varo in questi giorni al Parlamento invece viene ripristinato, seppur parzialmente, l'adeguamento all'inflazione anche per le pensioni di importo superiori a 3 volte, con una particolarità, cioè che per limitatamente all'anno 2014 quelle superiori a 6 volte il trattamento minimo, quindi parliamo circa di 3.000 euro al mese, non subiranno la rivalutazione. Uh-huh. Il problema sta che nel biennio che si sta concludendo una pensione di 1.600 euro lorde di fatto ha perso più di 1.000 euro all'anno a titolo di rivalutazione, così come il soggetto che percepiva comunque una pensione superiore a 3.000 euro al mese rispetto alla normativa vigente prima del blocco del decreto Salva Italia ha perso quasi 3.000 euro l'anno. Ci è andata, quindi, poi tra l'altro le cifre sono davvero preoccupanti, ma alla fine ci è andata anche bene perché l'inflazione non ha neanche tanto corso nel nostro paese come negli altri paesi europei negli ultimi anni, dottor Venanzi, perché altrimenti forse il sacrificio sarebbe stato anche maggiore. Certo, infatti noi veniamo da un'inflazione programmata prevista per il 2013 del 3%, quando poi quella effettiva sicuramente sarà inferiore, quella stimata invece per il triennio prossimo, quindi per il 14, 15 e 16 si stima che rimanga attorno al 2. Allora, Nicoletta, tra l'altro vedi ci sono già tanti ascoltatori pronti ad intervenire su tutti i temi di questa mattina. Vorrei anche ricordare, poi ti lascio, che potranno interagire con i nostri ospiti per tutta la durata della seconda parte del programma dalle 12.10 alle 12.30. Un ascoltatore ci scrive: Deborah, splendide ragazze, sono andate a vedere le vostre foto e mette anche wow, ho 55 anni e molta memoria di luoghi, date, visi e situazioni, ma non ricordo i nomi. SOS da Fede di Alessandria, però possiamo dire che almeno ha buon gusto. Nino, da Ancona, buongiorno. Nino? Nino, a tutti voi. Buongiorno. Sì, mi sentite? La sentiamo abbastanza bene, sì. Bene, buongiorno a tutti voi, qui il problema è serio. Dunque, 53 anni, ex speaker, attualmente mi occupo di web marketing e a tempo perso sono anche scrittore e autore, ho scritto anche un libro e mi propongo anche come ghostwriter, però ho un problema. Se mi metto a scrivere, riesco a scrivere benissimo, ottime sceneggiature, libri pronti per sceneggiature dei film e altro, ma se devo poi riportarli in pubblico, spiegare i contenuti di quello che ho scritto, non riesco a mettere assieme due parole. Non ricordo più la trama di quello che ho scritto, o magari non riesco più a essere selettivo di alcune frasi o ricorrenti del libro, di quello che ho scritto, dei testi che ho scritto. Non lo so perché, non riesco proprio a coniugare le due cose. Beh, caro demenza senile, non lo so. O solo emozione dell'affrontare un pubblico, perché può essere anche quello. Beh, caro Nino, potremmo dire quello che lei non ha, cioè una forma di demenza senile. Direi che lei è solo sgambettato dall'emotività. Quello che dovrebbe essere l'allerta, in lei diventa allarme. E diventando allarme, ecco che succede quello che succede quando uno va a ritirare un premio in pubblico, cammina come un robot, eppure si cammina benissimo, però c'è una zona del cervello in cui passano emozioni e movimenti, in cui passano emozioni e parole, e lei, questa zona del cervello, viene perturbata un po' come quando uno ha un cellulare che squilla vicino a un televisore. Quindi se lei continui con le sceneggiature, scriva e avrà ottime fortune. Allora, continuiamo invece anche sul tema delle pensioni, l'indicizzazione. Dottor Venanzi, c'è un ascoltatore, Carlo, che ci scrive: date le cifre nette, io so la mia pensione netta, parlano tutti del lordo, sembra che sei escluso, ma poi verifichi che mi hanno bloccato pur con un netto di 1.300 euro. Dottor Venanzi, un 1.300 euro di netto a che lordo corrisponderà? Dal carico fiscale che il lettore ha, se ha coniugi o figli a carico, certo. Verosimilmente dovrebbe stare attorno ai 1.600 euro lordi. Quindi potrebbe avere in questo momento questa famosa rivalutazione del 90% dell'inflazione, perché è tra le 3 e le 4 volte il minimo? Perfetto. Mamma mia, stamattina ho capito tutto, sono sorpresa di me stessa. Andiamo, è vero, dopo faccio fare un'analisi al professor Barbanti di questa mia lucidità eccezionale in certi giorni e in altre giornate invece cervello totalmente opaco. No, mi sembra una buona idea. Professor Barbanti, è così, i giorni sì e i giorni no. Sì, questo è possibilissimo. Intanto io sono molto attento all'igiene della vita, in particolare all'igiene del sonno. Dormiamo abbastanza, scarichiamo di notte le nostre informazioni, stocchiamo i ricordi come solo nel sonno può succedere. Beh, insomma, il fatto che dormire sia un tocca sana lo dicono gli antichi, lo dicevano i nostri genitori, ed è in realtà vero. E poi esistono i bioritmi, cioè delle fortunate sincronie dei ritmi neuro-ormonali che ci rendono alcuni giorni più scattanti, e questo lo sa bene l'atleta per quanto riguarda invece la coordinazione neuromuscolare. Mm-hmm. Allora, sì. Il dottor Venanzi ha fatto tutti i conteggi. Possiamo provare a fare due conti anche per il nostro cervello? Ci sono magari dei test che ci permettono di fare un conteggio? Sì, io penserei a due test da fare non agli ascoltatori, ma ai coniugi o agli amici degli ascoltatori e degli ascoltatrici, perché io loro lo svelo. Potremmo utilizzare questo, che è un test, che è una parte di un test molto famoso che esiste ormai da circa 40 anni. Vi ricordate il tormentone "dimmi tre parole"? Quelle erano sole, cuore, amore. Invece direi di dire a chi sta a casa e che volete testare tre parole che sono casa, pane e gatto. Dopo aver detto casa, pane e gatto, fate fare a loro una tabellina un po' cattiva, che è quella del 7, dicendo di sottrarre per 6 volte il numero 7 da 100. State tranquilli che non è semplicissimo. E poi diciamo di leggere, o meglio di pronunciare a rovescio, la parola carne. Dopo aver torturato per bene così l'interlocutore, gli chiediamo le tre parole e potremmo per esempio vedere che la persona dice, anziché casa, pane e gatto, casa, cane e gatto. In questo caso è una mancanza non di poco conto, perché la persona ha stoccato l'informazione semantica, l'animale, mentre invece doveva stoccare proprio la parola. Ma se vogliamo essere ancora più cattivi, prendiamo degli evidenziatori colorati di un figlio o di una figlia e scriviamo la parola rosso in giallo, la parola giallo in verde, la parola blu in viola e così via. E diciamo, leggi a voce alta quello che c'è scritto. Si chiama test di Stroop. E ha veramente questo quasi 80 anni, e è molto difficile. Questo serve per valutare la capacità nei tempi di reazione, perché siamo portati poi a pronunciare il colore in cui è scritto anziché la scritta. Cioè, se vediamo blu scritto in giallo, la nostra attenzione scema e possiamo dire giallo anziché blu. Insomma, proviamo con tutto questo e poi stiamo attenti che non ci tirino dietro qualcosa. Deborah, questo test di Stroop distrugge. Mi ha già messo in agitazione, però devo dire che il professor Barbanti ha introdotto tre concetti che mi sono segnata e mi sono piaciuti molto. A parte l'igiene del sonno, ma l'economista del cervello e la visione cimiteriale della medicina sono dei must che da ora in avanti porteremo sempre a Cuore Denari. Ti volevo leggere un messaggio, Nicoletta, che è quello di Andrea, che dice: 42 anni, buona fantasia a risoluzione dei problemi, ma la memoria mi fa acqua da tutte le parti e non mi ricordo a volte nemmeno i nomi dei parenti. Secondo me voleva dire la suocera, ma non ha avuto il coraggio. Che ne pensate? Intanto aspettiamo i nostri ascoltatori all'800240024 e Deborah, ci sono tanti ascoltatori che ci aspettano. Quale scegliamo? Scegliamo Rino da Treviso, che pone un tema per Fabio Venanzi, che adesso sentiamo la domanda, poi lasciamo riflettere il dottor Venanzi su questa faccenda appunto che pone l'ascoltatore. Rino, buongiorno. Buongiorno. Io sono un pensionato, purtroppo supero di poco le 6 volte la minima. Ho pagato tutti i miei contributi dall'A alla Z, non nessuno mi ha regalato niente, sono in pensione e continuo ancora a pagare i contributi perché lavoro. E perché non ho diritto di avere l'adeguamento? E dove non sono un statale, senza offendere gli statali, che vanno con la liquidazione sull'ultimo mese di paga, così si alza la pensione. I miei sono puri, veri contributi. Rino, perché qua abbiamo avuto uno Stato in grande difficoltà negli ultimi anni e si è prelevato laddove si poteva. Le pensioni sono la fonte più sicura in genere, Venanzi, vero? Certo, al pari dello stipendio dei dipendenti pubblici, che comunque hanno avuto il blocco del contratto, del rinnovo del contratto, quindi. Esatto, e si prevede nella legge di stabilità il blocco anche per il 2014 e lo stop almeno momentaneo fino al 2017, in quanto viene confermata l'indennità di vacanza contrattuale nello stesso importo al 2010, quindi possiamo dire che tutta la spesa della pubblica amministrazione è stata contingentata proprio a ricordo di quel momento buio che abbiamo vissuto alla fine del 2011. Allora, ci dobbiamo fermare, speriamo di aver accontentato con questa risposta l'ascoltatore un po' frustrato per quello che accade alla sua pensione. Nicoletta, andiamo in pausa? Andiamo in pausa con i nostri esperti e con i nostri ascoltatori. Chi ci ama, ci segua. Cuore e denari. Il giorno dopo le 9 del mattino cominciò finalmente, anche per Fantozzi, la felice vita del pensionato. Sono le 9. Sono in ritardo. Fantozzi. Ma dove cazzo è il mio cartellino? Ma che sei diventato scemo? Sei andato in pensione ieri, il tuo cartellino non c'è più. Nicoletta, anche noi abbiamo sdoganato la parolaccia a cuore denari. E me ne sono accorta. Va bene, facciamo finta di niente. Stiamo parlando questa mattina di pensioni a 360 gradi, dell'assegno che devono ricevere le pensioni, le persone che naturalmente lasciano il lavoro perché hanno il meritato periodo di riposo, e poi le leggi degli ultimi anni che sono intervenute più volte con qualche ritocchino, come lo abbiamo chiamato all'inizio, sull'indicizzazione delle pensioni non troppo alte, il prelievo, il contributo di solidarietà invece sulle pensioni molto alte, e poi parleremo anche degli esodati tra poco. C'è sempre Fabio Venanzi con noi, 800 24 00 24. Voi continuate quindi a farci le vostre domande, e se il pensiero dell'assegno di pensione si allontana, noi cerchiamo oggi insieme al professor Piero Barbanti di far allontanare anche la pensione dal nostro cervello, tenendolo attivo, stimolato, allenato. Dottore e professore, lei aveva in apertura anticipato che avremmo lavorato sulle emozioni, sui ricordi e sull'autonomia, e questo è una specie di piccolo test, ma io mi sono presa appunti. Sì, ecco, sì. Per tenermi allenato. Quindi daremo tutte delle indicazioni, dei consigli pratici quotidiani per fare questa sorta di allenamento, dallo stretching alla corsa. Sì, direi che poi occorre anche insegnare agli ascoltatori che si avvicinano alla età, che è sempre più spostata in là, alla terza età, a diversificare gli investimenti. Noi iperinvestiamo nell'aspetto cognitivo durante tutto il nostro periodo produttivo, che poi è produttivo economicamente. Poi abbiamo uno spaventoso periodo di produttività emozionale. Il talento, che non è il genio, cioè un genio ogni milione di abitanti, ma i talenti sono moltissimi, è una specie di gratta e vinci che riusciamo alcune volte a grattare quando siamo in pensione, ed ecco che gente si scopre con capacità artistiche, altre addirittura con capacità sportive in sport particolari, il tiro con l'arco, sport di precisione. Quindi il disinvestire in un settore, investire su quello che chiamo genericamente emozionale, è veramente un buon elisir per poter invecchiare, anche se questa parola suona male, con serenità. Però facciamolo in anticipo, non aspettiamo il momento della pensione per lanciarci in hobby e dare sfogo alla nostra creatività. Questo sì, è che alcune volte, specie con i tempi che corrono, l'assorbimento del nostro lavoro è talmente tanto che poi non pensiamo agli aspetti più coloriti della nostra esistenza. Su quello dobbiamo puntare, così come ormai tutti fanno nello sport, nell'alimentazione, cercando di seguire stile di vita salutare. Stile di vita salutare è anche quello di evitare di finire tecno stressati, Tecnostressati lo si è a 20 anni perché si usa troppo il computer, e a 60 anni perché lo si usa nonostante il fatto che non lo si vorrebbe usare. E così come ritagliamo il tempo, dicevamo, per sport e per abitudini alimentari salutari, cerchiamo di farlo anche per abitudini emotive salutari, trovandoci spazi. È il nostro investimento del futuro. Deborah. Sì, allora posso leggermi un messaggio, quello di Tina che ci racconta: ho 62 anni, mi capita di non ricordare nomi o cosa ho mangiato la sera prima, ma questo è frequente, la possiamo rassicurare. C'è però un episodio che l'ha preoccupata particolarmente. Stava salendo in auto, per qualche secondo non ha ricordato le manovre da fare per mettere in moto. Che era successo, dottore? Una specie di blackout. Beh, allora cominciamo dal condono tombale. Il condono tombale. Allora continuo a segnarmi tutti questi modi di dire eccezionali. Il condono tombale per la fasia nominum, quello ce l'avevano le mamme quando avevano 12 figli, lo facciamo anche a 62 anni alla signora Tina. In economia e nel fisco, ma insomma applicato a questi temi di stamattina è molto interessante. Come al solito. Una rondine non fa primavera, un fulmine non fa l'inverno, un singolo episodio così di breve durata a me entra da un orecchio ed esce dall'altro. È chiaro che se la signora Tina dovesse accorgersi che il fenomeno si ripete tante volte e che soprattutto incide nella sua attività quotidiana, nell'andare a fare la spesa, nell'andare in banca e pagare le mollette. Per stendere invece pane, questo un lapsus da velocità, direi che in quel caso sì, può pensare a rivolgersi a un neurologo. Allora, tornerei alle pensioni per un attimo. Dobbiamo introdurre il tema degli esodati, che come ho detto prima è davvero una piaga, una ferita aperta per molti degli ascoltatori che appunto intervengono anche nelle nostre trasmissioni all'800 24 00 24. Uno di questi è Roberto da Roma, che adesso sentiremo. Vorrei dare però la precedenza a Leonardo da Milano, che non capisce come si forma l'assegno appunto pensionistico che sta percependo in questo momento. Leonardo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Allora, faccio una breve premessa. Ho lavorato naturalmente 42 anni e un mese per percepire la mia pensione e continuo a lavorare. La mia pensione è formata da 26 anni da dipendente, 12 anni da artigiano e 4 anni da co-co-co. Ecco, stavo aspettando naturalmente di maturare i 40 anni per poi chiedere il mio segno pensionistico. Questo non è stato possibile perché per l'intervento naturalmente della legge Fornero. Del quel ministro, esattamente. Le pensioni sono andate in questa maniera qui. Ecco, la mia pensione, tanto per fare delle cifre, era praticamente formata da 1850 euro netti dei 38 anni di contributi, perché ho fatto fare dei conteggi, e da circa 100 euro dei 4 anni di co-co-co, per un totale naturalmente quasi di 2000 euro al mese. Naturalmente, se avessi potuto fare gli altri 2 anni avrei percepito circa 1900 euro rotti netti, e più naturalmente 65 anni avrei percepito l'altra pensione da co-co-co. E invece io oggi prendo 1147 euro netti. Io non sono arrabbiato per quello che prendo, perché vedo che c'è molta difficoltà in giro, no? Però che questi altri 1000 euro che mi sono stati rubati dallo Stato vadano a finire nelle tasche di gente che percepisce 90.000 euro al mese di pensione, questo mi fa arrabbiare. E lì non c'è contributo di solidarietà che tenga, perché a me mi è stato chiesto 50% di contributo di solidarietà. Ecco, mentre a gente che prende 90.000 euro al mese gli chiedono il 5%. È una vergogna, guardi. Questa è una vergogna nazionale. Ma non possiamo che condividere. Infatti, dottor Venanzi, cosa è successo all'assegno del nostro ascoltatore di Milano? È stato consigliato male, nel senso che gli è stato fatto un conteggio errato? Occorrerebbe conoscere l'età per poter capire che cosa. Io ho 58 anni. Allora, oggi 60 anni. Allora, praticamente abbiamo i contributi da artigiano e da lavoratore dipendente che possono essere cumulati e ogni gestione erogherà il trattamento pro quota a seconda dell'importo dei contributi o delle retribuzioni percepite. E sono 38 anni complessivi quelli. Esatto. Per quanto riguarda i 4 anni da co-co-co, sarebbero accreditati nella gestione separata dell'INPS e danno comunque una pensione calcolata con le regole del sistema contributivo. Non vorrei che il nostro ascoltatore sia stato consigliato e abbia fatto ricorso alla totalizzazione. La totalizzazione consente di accedere alla pensione quando la carriera contributiva è particolarmente variegata, sì, però paga poi la penalità che non seguono più le regole di calcolo tipiche dell'ordinamento previdenziale, ma tutti pro quota di pensione vengono calcolate come se il nostro ascoltatore rientrasse in un sistema contributivo. Mm-hmm. Quindi mi verrebbe da pensare, visto l'importo teorico che gli avevano detto e visto quello che poi effettivamente invece è stato messo in pagamento, deduco che abbia fatto ricorso alla totalizzazione, quindi tre quote di pensione, tutte e tre calcolate con le regole del sistema contributivo. Certo che dottor Venanzi, anche su questi temi così delicati, sì, a incappare anche nella persona, nel consulente giusto, è veramente difficile, perché qua stiamo parlando anche di 900 euro di differenza, per cui immaginiamo quali potevano essere, anche Nicoletta, ai fini di una buona qualità della vita, le aspettative dell'ascoltatore, e poi così deluse. Come si fa, dottor Venanzi, a cadere in buone mani? No, dottor Venanzi, guarda, tutte le volte che interviene nelle nostre trasmissioni poi viene tempestato di mail a mia totale insaputa da parte di persone che lo intercettano in tutta Italia, perciò però fate è vero. bene perché bravo, ed è chiaro, voglio fare i complimenti anche all'ospite di Denari, perché il nostro ospite di cuore oggi si è preso un sacco di complimenti, ecco. Bravo dottor Venanzi, lei dice delle cose difficili rendendolo semplici, ma lei ci deve aiutare di più e ci deve dire che cosa possiamo fare. Certo, andiamo nei centri di assistenza fiscale, ma con tutte queste regole che cambiano continuamente anche voi siete in difficoltà qualche volta. Sicuramente, io quando assisto delle persone che comunque vogliono andare in pensione, non è facile suggerire loro qual è la strada migliore da seguire, perché purtroppo il panorama normativo è particolarmente vasto, soprattutto non si riesce a cristallizzare in quanto c'è un'evoluzione continua. Noi basta pensare soltanto che nell'anno 2013, con il disegno di legge di stabilità che è in fase di approvazione, abbiamo avuto 4 interventi. Quindi se sommiamo che negli ultimi anni mediamente abbiamo avuto almeno 1 se non 2 interventi, avere una memoria storica di quello che è stato il panorama a proposito di memoria. Esatto. Tra l'altro volevo chiedere al nostro professor Barbanti, ci sono, prima di andare alle informazioni sul traffico, quindi ci sono delle professioni che tutelano un po' la salute del cervello, che lo aiutano ad invecchiare meglio? Stavo pensando al nostro dottor Venanzi, che insomma si destreggia tra leggi, numeri, conteggi, fa una sorta, è un atleta, il suo cervello invecchierà meglio di chi magari fa invece un altro tipo di lavoro, meno stressante forse a livello di conteggi. Il suo cervello invecchierà meglio perché, essendo una persona dedita all'attività intellettuale, sviluppa tanti contatti Facebook. La persona che al mondo ha più amici su Facebook è il neurone, perché ogni neurone è collegato a 10.000 amici. E evidentemente se uno è attivo intellettualmente, gli amici aumentano a dismisura, e tanto più sono le spine, tanto più difficile staccarle. Però attenzione, chi campa lungo in genere è il contadino. Chi campa lungo e bene, perché? Perché le tre cose che rappresentano l'elisir di lunga vita, perché attivano proteine chiamate sirtuine, che sono quelle dell'invecchiamento, sono l'attività fisica, la restrizione calorica e il vino rosso. E allora, se il dottor Venanzi fa anche queste tre cose, avrà una vita infinitamente attiva sotto il profilo cognitivo. Mi sta facendo un gesto il nostro Carmelo, Nicoletta, sai a andiamo, che cosa, lo che so, cosa il solito gesto. Il volante, niente di volgare naturalmente, i suggerimenti per chi è in viaggio tra poco. Cuore e denari. Mi ricordo di un ricordo, spero che non me lo scordo, un ricordo di fanciullo che mi dona sicurezza, e per non dimenticarlo io mi alleno a ricordarlo. Ma eccoci di nuovo in diretta con Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone da Roma questa mattina, ci senti? Eccoci. Sono qui e sono pronta. A proposito di ricordare, invito Deborah e anche chi ci sta ascoltando a ricordare i tre segreti per mantenere il cervello giovane e attivo fin oltre la pensione. Li ha anticipati il professor Barbanti prima delle informazioni sul traffico. Una, vi do un aiutino, era l'attività fisica, ma Deborah, lo ricordi anche tu, ha aggiunto altre due indicazioni molto importanti. Allora, possiamo dire ai nostri ascoltatori di chiamarci, questo è anche un esercizio per valutare la loro attenzione e anche la memoria, è un esercizio di stretching per il nostro cervello, e quindi chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 e dateci la ricetta del professor Barbanti, il vostro cervello ringrazierà. Noi apriremo la libreria di Cuore Denari, naturalmente magari al primo ascoltatore che chiama, che ci racconta la ricetta giusta, regaleremo appunto i nostri volumi, così a nostra scelta. Sentiamo anche qualche ascoltatore, Nicoletta, che ne dici? Molto volentieri. Allora abbiamo che aspetta da un bel po' di tempo, forse Alfredo da Modena. Alfredo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo dire tre cose molto rapide per il professor Barbanti e il dottor Valenti. La prima è che sicuramente io ho 58 anni, ogni tanto mi dimentico un nome, ma dato che poi io lo ricordo più tardi, e comunque secondo me siamo subissati da informazioni, io farò 70-80 telefonate al giorno almeno, quindi ritengo che questo rientri nella normalità sia dell'età che della, diciamo, che della vita di tutti i giorni. Sì. Invece diversamente voglio raccontare un piccolissimo episodio molto rapido. Quando io vivo a Mirandola, dove c'è stato il terremoto, dopo il terremoto ho perso la memoria, ero in un albergo e non mi sono ricordato più dov'ero, e soprattutto per un episodio così che poi non è più capitato, ho fatto tutte le indagini per cui non c'è niente di patologico in questo, ma soprattutto ho notato che è da quel momento che la memoria ha avuto un qualche problema in più. E qui ho chiuso l'argomento con il dottor professor Barbanti. Per quanto riguarda il dottor Valenti, una cosa che non si parla mai, al di là delle pensioni ed è collegato alle pensioni, è il fatto per esempio che mia moglie ha lavorato 10 anni nel privato, poi a 45 anni è stata assunta nel pubblico e adesso per riscattare i 10 anni di pensione deve pagare una cifra che è sproposita. Nella vecchia formula, diciamo, di Cuore Denari, quando eravamo ancora indipendenti, a Salvadanaio ce ne siamo occupati una volta, Alfredo, e ricordo, però non se ne parla più. Esatto, invece, e la questione non si è risolta. Rimane. La ringrazio per la segnalazione, magari la confezioneremo in un altro programma, però Nicoletta, il tema dell'evento traumatico per l'ascoltatore con il terremoto è molto interessante. Perché è un evento traumatico e quindi una specie di shock, ma mi volevo complimentare con Alfredo perché due esperti, due modi di affrontare il tema, ha proposto due domande. Professor Barbanti. In rapida successione, prima 60-70 telefonate configurano quello che adesso, l'ho nominato prima, si chiama tecnostress. Il nostro cervello è invaso dal cortisolo e essendo invaso dal cortisolo è in condizione non di allerta ma di allarme ed ecco che memorizziamo meno. L'altra cosa che lui ha avuto è una cosa molto nota, per quanto si possa essere un po' approssimata la diagnosi a distanza, si chiama amnesia globale transitoria ed è un blackout di una zona che ha un nome strano, si chiama ippocampo del nostro cervello, che ha funzioni mnemoniche ma anche funzioni emotive. Il grave shock emotivo è spesso alla base di questa amnesia globale transitoria, è un blackout, dopodiché la memoria riprende normalmente e direi che la perfezione nel confezionare le domande dimostra che la memoria sia dichiarativa di Alfredo è sicuramente in perfetto stato. Sentiamo anche l'altro aspetto affrontato dall'ascoltatore con Fabio Venanzi, solamente un minuto abbiamo per appunto commentare quello che è accaduto alla moglie dell'ascoltatore che ci ha chiamato poco fa, il passaggio dal pubblico al privato o viceversa ai fini pensionistici, un salasso, dottor Venanzi. Certo, questo a causa della legge dell'estate 2010 che ha reso molto oneroso il trasferimento dei contributi, però ad Alfredo possiamo dire che la vecchia legge di stabilità, quella per il 2013, ha previsto un'ulteriore forma di accesso al pensionamento, il cosiddetto cumulo contributivo, che consente comunque la valorizzazione di tutte le posizioni previdenziali ancorché accreditate in diversi istituti, come il caso dell'INPS e dell'ex INPDAP, che ancorché sia stato assorbito dall'INPS stesso, in realtà mantiene le peculiarità tipiche proprio dell'ordinamento pubblicistico, e quindi la moglie potrà comunque accedere alla pensione di vecchiaia mantenendo le singole contribuzioni nelle diverse gestioni, senza però doversi accollare l'onere della ricongiunzione con un trattamento pensionistico sicuramente più vantaggioso. Allora, tra l'altro, se l'ascoltatore non ha compreso appunto che c'è questa novità e questa previsione appunto del cumulo, lo invitiamo a scriverci. Il cumulo così già legge. Esatto, quindi qualora appunto gli fosse sfuggita questa novità, lo invitiamo a scriverci, così gli daremo anche i dettagli di legge più precisi. Nicoletta, prima di salutarci ti dico solo un numero magico, che è 38, e non dico altro. Ok. E non è la nostra età, ma magari lo sveleremo in un'altra circostanza che cosa corrisponde a questa cifra. 38. Esatto. Cuore e denari. Eccoci ritrovati ancora in diretta, ancora buongiorno dalla parte di Denari, Deborah Rosciani, e da Roma. E dalla parte di Cuore, Nicoletta Carbone. Oggi affrontiamo il tema della pensione, ma a 360 gradi, il livello economico, naturalmente l'aspetto economico, quindi i criteri per andare in pensione, le novità dell'ultima legge di stabilità sulla perequazione, l'adeguamento all'inflazione, la novità che riguarda gli esodati, e poi naturalmente come fare per mantenere questo cervello allenato, Nicoletta, per evitare che vada in pensione troppo presto. Il professor Barbanti ha dato una ricetta, sono tre gli ingredienti, uno l'abbiamo anticipato, è l'attività fisica, di cui possiamo anticipare, Deborah, parleremo anche domani naturalmente, perché è venerdì e magari a qualcuno si prospetta un fine settimana di allenamento per stare bene. Mancano gli altri due ingredienti, 800 24 00 24. Allora, gli ascoltatori possono anche scriverci al 349 238 6666 e adesso andiamo a sentire un po' per gli esodati quali sono le novità della legge di stabilità. Salva Danaio. Scusi tanto signora, sa dov'è che danno le pensioni? Di là? Grazie, molto gentile. Pirini? Chi è? Io, Fantozzi. Qui, carissimo Fantozzi, come va? Ecco, per prendere la pensione, suppongo. Sì, la ce l'hanno, mi ha detto. Ma dove andiamo? Lì, venga, l'accompagno. Grazie. E la pensione è sfuggita di mano a quella nuova categoria con la quale abbiamo preso confidenza negli ultimi tempi, la categoria degli esodati, perché Fabio Venanzi, e ricordiamolo, sono tutti quegli ex lavoratori che magari per un accordo con l'azienda hanno chiesto di andare in pensione anticipata, perché naturalmente nel giro di poco avrebbero raggiunto i requisiti per andare in pensione, invece questa pensione è sfuggita di mano. Oggi a che punto è la situazione per queste persone? Allora, proprio come dicevi tu Deborah, dopo la riforma della fine del 2011 si sono create diverse platee di soggetti che sarebbero potuti andare in pensione nell'arco massimo di 4 anni e che invece con l'inasprimento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento si sono visti scappare questa opportunità. Al momento tutti i correttivi che sono stati previsti dalle norme hanno salvaguardato oltre 150.000 soggetti, lavoratori. Naturalmente per determinate categorie di lavoratori era richiesta la presentazione di una domanda presso le direzioni territoriali del lavoro, e ad oggi dobbiamo dire purtroppo che chi non l'ha presentata è fuori, perché l'ultimo termine è scaduto il 25 settembre. Scorso. E quindi le pratiche sono ancora in lavorazione, entro domani si completerà appunto l'esame di quelle che sono già arrivate. Allora, adesso parleremo della nuova cifra praticamente che si è creata con la legge di stabilità per i nuovi salvaguardati, però forse, Nicoletta, ci sono le persone che hanno risposto al quesito che abbiamo posto poco fa. Dai, vediamo se sono preparate. Patrizia, buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti. Ah, che carina, grazie, buongiorno, da Chieti. Patrizia, ci dica la ricetta. Sì, io me lo sono scritto, però ho fatto un po' la furbetta perché la memoria facilecca. Allora, vabbè, l'ospite perfetta di questa mattina, diciamo. Perfetto, dai, Patrizia, allora. Attività fisica, restrizione calorica e vino rosso. Brava Patrizia, l'ha scritto, l'ha ricordato e le arriverà un libro. Premio alla sincerità. Abbiamo anche l'applauso naturalmente per accogliere al meglio i nostri ascoltatori. Quindi ha azzeccato, dottor Barbanti? Ci mancherebbe. Ha azzeccato perfettamente. Solo un piccolo inciso, perché l'attività fisica? Perché l'attività fisica fa produrre fattori di crescita nervosa e, per chi ha una certa età, sappia che è dimostrato da almeno 30 lavori scientifici che fare attività aerobica 45 minuti, 3 volte a settimana in soggetti ultra sessantenni, aumenta lo spessore della sostanza grigia nelle zone cruciali, che sono la zona frontale del cervello, quella del problem solving, l'anziana a volte si perde in un bicchiere d'acqua, e nell'ippocampo, che è la zona della memoria. E ricordiamo che un'ottima attività fisica è il ballo. E i nostri vecchi lo sapevano. Quando stava dicendo aerobica ho pensato, oh signore, sta dicendo erotica, e dico, però magari anche quella, professor Barbanti, no? Perché ma, no? Ma vede com'è diventata questa Debra? Vabbè, mi sono adeguata allo standard del nuovo programma, sono curiosa su tanti aspetti. Non è così, professor Barbanti? È un profondo indice di salute psicofisica. D'altra parte l'istinto della riproduzione, assieme all'istinto del dormire e del mangiare, è regolato dall'ipotalamo che, quando liberato dallo stress, parla anche in questi termini. È il problema dell'istinto. Allora, possiamo dire movimento a 360 gradi, che sia piacevole da fare da soli o in coppia, va bene? Senza dubbio. Allora, 800 24 00 24 per continuare ad intervenire sui temi di questa mattina, e abbiamo Roberto da Roma, che è un esodato e naturalmente in difficoltà perché non prende più lo stipendio, non prende ancora la pensione, Roberto, e quindi un po' arrabbiato. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la linea. Grazie a lei. Diciamo che la prima parte di quello che volevo dire l'ho anticipata poco fa, che l'accordo di esodo non è altro che l'accordo tra un lavoratore e l'azienda per cui poi è andato in esodo. Mm-hmm. Quindi non capisco, e mi chiedo ancora adesso, come si può a un certo punto modificare o annullare addirittura questo accordo con delle leggi Fornero, Sacconi e così via, che portano chiaramente le persone a rimanere scoperti X mesi. Addirittura parlo quelli del 2013, credo che l'accordo per il pagamento degli arretrati non sia stato ancora firmato dal Ministero delle Finanze e del Lavoro. Adesso sentiamo il nostro consulente. E questo anche dal governo Letta, che, se non sbaglio, nel suo programma aveva messo come diciamo uno degli argomenti da risolvere proprio il problema degli esodati. Infatti. E poi questi giorni, l'ultima cosa che ho sentito strana, di non ricordo quale politico sta per andare in pensione, che lui disse no, per noi le leggi non hanno effetto retroattivo, ma allora abbiamo lavoratori di classe A e lavoratori di classe B, cioè alcuni che la legge ha effetto retroattivo e altri che la legge non ha effetto più che il problema di lavoratori di serie A e di serie B, è un problema proprio di che non c'è trippa per gatti nelle casse dello Stato, Roberto, per cui ma ha ragione, la trippa l'ha mangiata tutti, questo è fatto. Ecco. Era buona, si chissà, vede, esatto, chissà come si terranno in allenamento il cervello tutte. E qui siamo rimasti senza niente gli altri. Roberto, tra l'altro, posso chiederle quando riuscirà quindi ad avere il primo assegno pensionistico? Le hanno dato un'informazione corretta? Presumo che dovrebbe essere il 1 ottobre 2014. È rimasto totalmente scoperto, privo di stipendio, privo di pensione, per quanto tempo? Per 10 mesi. 10 mesi, Roberto, grazie, in bocca al lupo per tutto. Dottor Venanzi, peraltro, non è stata neanche una delle situazioni peggiori, anche se magari Roberto non sarà d'accordo, però è così. Sì, nel senso, allora bisognerebbe capire in quale fattispecie di categoria di salvaguardati Roberto rientra, perché, come dicevamo prima, ogni fattispecie prevede delle deroghe. Siccome ha parlato di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, immagino che rientri tra i soggetti titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, quindi in particolar modo era un ex bancario o comunque in altri settori privi di tutela. Se fosse così, il decreto per l'anno 2013 deve ancora uscire, quindi finora per il 2011 e per il 2012 i soggetti che si trovavano privi di copertura economica, perché finiva il fondo di solidarietà e non avevano ancora accesso alla pensione, è stato previsto per queste categorie comunque un'estensione della prestazione. Purtroppo, non avendo dati magari lì chiederemo a Roberto se vorrà scriverci, potremmo appunto poi girare la mail di Roberto al nostro consulente. Nicoletta. Professor Barbanti, ma nel cervello ci sono delle parti che potremmo definire esodate? Che potremmo paragonare a questa categoria di cui l'economista del cervello dovrebbe saperlo, giustamente. Bene, insomma, la parola è un po' forte. Se diciamo parti che rischiano di essere un po' beffate, forse è proprio il sistema limbico. Il sistema limbico è uno strano sistema che sta a cavallo tra emozione, sentimento, impulso e memoria. Ci insegnano dai 25 anni in poi, 25 anni è quando per convenzione termina l'ultimo degli allacci cerebrali, pensate un po'. Veramente? Sì, in realtà l'opera di le sgrossature, le piccole stuccature vengono terminate non a 18 anni, quando la maggiorità scatta, ma in realtà più verso i 24-25 anni. Beh, insomma, ci insegnano a tenerlo zitto fino, per ragione di Stato ovviamente, fino a che noi non andiamo in pensione. A quel punto, con una parte impulsiva, emotiva, sentimentale, chiamiamola coartata, cioè schiacciata, non morta, adesso incomincia a vivere, ovviamente senza il lavoro. È un po' come quando si usava a fare i mix nelle discoteche con i dischi, c'è una coda bianca. Beh, quella coda bianca va riempita. E quindi tornavo a dire agli ascoltatori, veramente il consiglio è quello di investire in emozioni, viaggiare, muoversi, ma muoversi anche per il proprio quartiere, non necessariamente, visti anche i tempi, andare in posti esotici, e stimolare quella parte che è esistente in noi e che potremmo paragonare in parte alla parte esodata, quindi la parte limbica, che controlla tra l'altro anche il nostro stress, e nutrendola bene, l'ipotalamo di cui parlavamo prima, risponde meglio e quindi ci fa dormire, mangiare e anche riprodurci. E come la possiamo nutrire, professore? Ci sono anche degli alimenti? Allora, il cervello va nutrito con le cose che facilitano quella che io chiamo la raccolta differenziata, ecco. Perché noi accumuliamo un sacco di scartoffie negli anni, perché il metabolismo delle cellule nervose produce cose difficili da smaltire, come i toner. Ecco, io odio i toner, perché anche durano poco e sono carissimi. Eppure noi qua in redazione, glielo posso assicurare, sappiamo dove metterli. Come i toner delle stampanti. Allora, per questo servono molti antiossidanti, e c'è anche recentemente una sostanza che non è antiossidante, che è derivato da un aminoacido, la omotaurina, che serve per tagliare bene i capelli al neurone. Avete capito bene, il neurone ha un capello capello un po' sbarazzino. Ne ha tanti, siamo dendriti, ma ha una superficie, sulla superficie una proteina, si chiama beta APP, che quando tu tagli bene va tutto bene, quando tagli male si accumula e forma l'amiloide, che poi è la causa, assieme ad altri, dell'Alzheimer. Ebbene, sembra che l'omotaurina, che è un integratore, possa aiutare a tagliare lungo la linea tratteggiata giusta, quindi a fare il bel taglio dei capelli con un bel trimmer millimetrato senza sbagliare. Quindi attività fisica, restrizione calorica, vino rosso e anche questa taglia capelli della neurina. Andiamo dal parrucchiere in neurone. Omoteurine antiossidanti. Ottimo. Sentiamo Antonio da Bergamo per voi, Nicoletta. Volentieri. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie e complimenti veramente per la trasmissione, molto molto interessante. Grazie. Grazie. Allora, Antonio, già ci piace. Risale all'università di fisica, una muta. Ha avuto un problema, un deperimento organico, un qualcosa del genere, che man mano nel tempo la memoria è diminuita. Se io leggo un articolo di un giornale, ricordo i concetti, ma non ricordo le date, non ricordo i nomi, quindi ricordo soltanto la cornice. Io vado per immagini, associazione di cose, ma non ricordo i nomi, gli aneddoti, la data. Allora, professor Barbanti, cosa si può fare? Attribuisce per questo esame. Posso dire ad Antonio che è un uomo fortunato, perché lui ha già zippato l'informazione, ha già estratto il succo, ha già distillato ciò che serve. Noi leggiamo tra le 150 e le 200 parole per minuto, ci sono alcuni che con le mnemotecniche arrivano a prenderne 3.000. Beh, insomma, lei forse, e ovviamente in quel caso prendono solamente il succo della parola, non la parola stessa. Quello che gli è successo a quell'epoca è l'effetto di barrage, cioè di sbarramento dato dall'emotività in eccesso, ma il suo cervello crea collegamenti tra concetti, che è molto più difficile da fare, quindi direi di stare tranquillo. Professor Barbanti, avrei una curiosità, dato che molti dei nostri ascoltatori, e Deborah ed io, siamo spesso preoccupate dei segnali che ci manda il cervello, il vuoto di memoria, il lapsus, la parola che non viene, mi chiedevo se ci sono segnali che arrivano dal corpo, che non arrivano soltanto dalla testa o dalla memoria, provengono da parti più lontane, che possono dirci e segnalarci che il nostro cervello vorrebbe o sta per andare in pensione. Cerchiamo di dire qualcosa che ci faccia capire se il cervello stia andando in pensione anticipata, perché diciamo una volta per tutti, qualche scricchiolio della memoria è giusto che venga, perché invecchia la pelle, invecchia l'udito, invecchia anche il cervello. Però direi che tra i sintomi fisici, un occhio all'andatura. Trasciniamo i piedi, camminiamo con un passo più lento, tendiamo a cadere con più facilità. Questo può entrare in alcuni disturbi neurologici legati a volte a fenomeni circolatori, altre volte a fatti più degenerativi, che può rappresentare l'antifono. Un'altra cosa, ecco, questa è una cosa molto bizzarra. La scrittura che diventa piccola, ma rivolgiamoci, di solito è più frequente negli uomini, l'urlare e il menare calci e pugni nel sonno. Si chiama disturbo del sonno REM, non è il sonnambulismo, non è il sonniloquio, il parlare di notte, quello può essere un sintomo che qualcosa in noi sta invecchiando un po' prima del tempo. Deborah, hai preso appunti? Ho preso appunti, naturalmente adesso vedo chi prenderò pugni di notte, insomma, poi me lo dovrò far dire. Allora, sentiamo ancora qualche altro ascoltatore invece per il nostro esperto di pensioni e direi di sentire Giuseppe da Padova, che poverino lo stiamo facendo aspettare dalle 11.30. Giuseppe, buongiorno, eccoci a lei. Buongiorno, nessun problema, anzi vi ringrazio per avermi chiamato e soprattutto complimenti per la trasmissione che vi seguo sempre. Ottimo, grazie Giuseppe. Volevo sapere una cosa, cioè di questo non si era ancora parlato. Io sono un pensionato da diversi anni, però per non fare andare in pensione il mio cervello ho continuato a lavorare. Bravo. Perché faccio l'artigiano. Però il problema è questo, è che mentre prima, per esempio, visto che non è un'attività molto redditizia, facevo, non so, sui 8-10 mila euro di imponibile, allora pagavo 2.300 euro perché l'aliquota era al 23%, anzi ero nella categoria del minimo, diciamo, sì. Esattamente. Okay. Adesso, oltre ad aver tolto lo scaglione del 20%, perché solo le persone fino a 35 anni mi pare possono entrarci, nel regime dei minimi, sì. Con la pensione. Di così che, mentre prima, per esempio, su 10.000 euro pagavo 2.300 euro, adesso ne pago molto di più. Allora, senza aver fatto assolutamente niente. Quindi praticamente è come avermi tolto i soldi della pensione oppure aver detto non devi grazie, più lavorare. Grazie. Venanzi, pensaci tu, verrebbe da esatto, dire. Venanzi, no? Insomma, questo ascoltatore pieno di buona volontà e iniziativa vuole mantenere il cervello attivo, ma soprattutto vuole magari anche arrotondare la pensione continuando a lavorare perché è ancora in forma e però dice insomma questo cumulo è così penalizzante, è così per tutti? Caso il problema non è previdenziale bensì fiscale, perché è una questione di tassazione del cumulo dei redditi. Il nostro Giuseppe si può consolare pensando che comunque quando cesserà definitivamente anche l'attività d'artigiano avrà diritto a un'aggiunta sulla pensione e quindi potrà riscuotere la cosiddetta pensione supplementare. Speriamo che non si inventino qualcos'altro magari per non dargliela. Chi sentiamo anche rapidamente? Vorrei leggere un messaggio, sì, di certo. Alex, che ci chiama da Milano, proprio ci dà un consiglio. Ho notato che da che ho cominciato a giocare a scacchi la mia memoria è notevolmente migliorata. Bravo. Io invece ho un cervello che si rifiuta proprio di imparare il gioco degli scacchi perché non ci capisco niente, però vabbè. Anna, buongiorno. Anna è caduta, mannaggia. Prendiamo Giovanni da Bari. Dai. Velocissimo. Okay. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, la seguo sempre. Grazie. Ecco, io la mia domanda è questa, io lavoro nel Ministero della Difesa, siccome tempo fa è stato approvato un decreto per la fuoriuscita anticipata di circa 2.500 persone, volevo sapere a che punto sta questo decreto. Perché non ne sa più niente, speriamo che Fabio Venanzi ne sappia qualcosa, altrimenti ci andremo a documentare, Giovanni, poi magari la ricontattiamo. Venanzi, ha conoscenza di questo provvedimento? Allora, le amministrazioni dello Stato, immagino che il nostro Giovanni sia un impiegato amministrativo e non appartenente alle forze dell'ordine, quindi esercito, certo. Ecco, hanno avuto la possibilità di dichiarare degli esuberi di personale e su questi posti della pianta organica, se i soggetti riuscivano a perfezionare i diritti a pensione con le regole vigenti prima della riforma di fine 2011, entro il 2015 potranno accedere con le vecchie regole. Naturalmente ogni amministrazione si è data una regolamentazione diversa, una tempistica diversa. E soprattutto hanno stabilito dei contingenti predeterminati che oramai sono usciti già da qualche tempo. Bene, non abbiamo tempo per approfondire. Nicoletta, abbiamo terminato anche oggi. Domani ci sentiamo, noi due ci vediamo a partire dalle 11. Grazie anche al professor Barbanti, a tutti i ragazzi che ci assistono tutti i giorni. È tardissimo, ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti. Cuore e denari.